Sono Tamara Malzari, ho 45 anni e faccio la viticoltrice. Insieme a mio marito abbiamo messo in piedi una cantina, anche se poi di estrazione io ho fatto tutt'altri studi, perché ho imparato a lavorare, però prima facevo l'architetto. Mancato, stavo studiando. Ecco, poi ho abbandonato gli studi per mettere in piedi l'azienda assieme a lui, ecco. E da allora mi occupo di questo lavoro. Sono Anisia Rosi, ho 18 anni e appunto sono la figlia di due viticoltori, Tamara ed Eugenio. Attualmente studio ancora tutto San Michele all'Adige, frequento il corso di trasformazione dei prodotti, quindi un corso che parla in generale di tutto, di viti, di meli, di animali e principalmente mi piace l'ambiente dell'autoproduzione dei prodotti, quindi l'autoprodursi ciò che si mangia. E in azienda comunque collaboro, do una mano e sono in parte integrante dell'azienda. Qui siamo nella Fornas, che sarebbe la vecchia fornace di famiglia di Eugenio, e siamo alle porte della zona dei Siresi, dove si coltiva il marzemino e dove una volta si raccoglieva l'argilla per produrre mattoni, coppi, e la famiglia di Eugenio all'epoca lavorava appunto questo materiale e produceva mattoni e coppi. Come hanno influito i tuoi studi nella tua visione della gestione della terra? Hanno influito in qualche modo? Se sì, come? Sì e no, nel senso che dal punto di vista di studi ho abbandonato tutto proprio. Comunque ti rimane un po' il collegamento con la bellezza delle strutture, dell'ambiente dove sei, dell'insieme delle cose, la ricerca del particolare anche nella campagna. È una cosa che ti cattura sia dall'architettura che dalla terra. Ecco, io a volte guardo la luce. Queste sono le ore più belle, per stare in campagna c'è una luce stupenda e questo ho imparato a guardarla magari quando guardavo i monumenti, perché ti permettono di vedere particolari chiari, scuri, che altrimenti non vedi. O soffermarmi a guardare, non so, come è fatta una vigna, come è fatto un insetto, come agisce l'insetto, perché sono tutte cose che la cura del particolare che ti porti, secondo me, un po' anche dagli studi di architettura, quello sì, un pochino. E tu, qual è la tua esperienza, Anisia? Beh, allora sono nata in questo ambiente, naturalmente, quindi fin da piccola sono stata portata in campagna, anche proprio per passare i primi anni, per divertirmi, per distrarmi. Ad esempio mio nonno mi ricorda mi faceva fare le trombette con i fili d'erba, o magari anche solo la raccolta delle patate, la raccolta dei piccoli frutti con i nonni, con la mamma, col papà, o imparare fin da piccola comunque a lavorare, quindi non so come si pianta una vigna, mi è stato insegnato come farla crescere, ma anche apprezzare proprio il fatto di stare in campagna, di passare delle ore in campagna e apprezzare questo tempo, quindi non starci solo per forza, ma goderselo. Con la mamma che ti sgridava quando giocavi con le verdure dell'orto a fare i minestroni. Io mi arrabbiavo, non si gioca col cibo! La prendevo con le E i marce. nonni gliele davano. Tamara, mi hai fatto un'affermazione al telefono molto bella. La terra è bassa, me la puoi raccontare Sì, un questa è una sensazione che da un po' di tempo mi porto dietro, perché si parlava appunto anche del lockdown, di quanto durante il lockdown tanti si siano avvicinati alla terra, e appunto perché la terra porta questa visione poetica, perché sei all'aperto, sei a contatto con la natura, tutto quanto. Che è bellissimo. Poi in realtà quando vai a scontrarti col vero lavoro, ecco perché la terra è bassa, perché bisogna far fatica, bisogna piegare la schiena, non è tutto poesia, anche se non toglie nulla di bello al lavoro. Ecco, per cui poi quando ci si scontra con l'effettiva fatica, è lì che capisci il valore della terra e anche che valore che riesci a dargli, se ce la fai a coltivarla, non coltivarla, perché comunque implica fatica. E, non so, a volte io seguo l'orto facendo due conti tra il tempo che devi dedicare e tutto quanto, mi costa di meno la verdura al supermercato. Però poi mi giro e dico sì, però so cosa mangio. Decido io come coltivarle, come non coltivarle, so cosa metto nei piatti a loro, so cosa metto via per l'inverno, per cui sono cose che fai, ma le fai perché devi essere spinto da qualcosa. Dopo, per quanto riguarda l'umiltà, io purtroppo mi rendo conto che a volte in questo lavoro, che richiederebbe umiltà, appunto perché l'approccio con la terra comunque richiede umiltà, perché te puoi indirizzare ma poi è la natura che decide, e nell'animo umano non c'è sempre tutta questa umiltà, c'è un voler per forza prevaricare, e cosa più banale, i tempi. Bisogna sempre accelerare, bisogna sempre far prima. Non finisce la vendemmia, bisogna potare le vigne. No, perché la natura ha il suo ritmo. Le vigne vanno potate quando le foglie sono cadute, perché altrimenti metti sotto stress la vigna. Però dopo l'inverno sono tranquillo, perché ho già fatto il lavoro. Queste cose io non le trovo molto in sintonia con quella che è la natura. E tutto questo forzare i tempi, forzare le concimazioni, forzare tutto, ecco, perché bisogna sempre far di più. E dopo è chiaro che se fai questo lavoro lo fai come lavoro, e un lavoro vuol dire che comunque devi vivere, non è che facciamo questo lavoro per gloria, però deve esserci un rispetto, cioè un dare per avere, ecco, un equilibrio tra le due cose. Accettare a volte delle sconfitte e a volte aiutare, e tante volte star fermi, perché comunque in questo lavoro a volte bisogna anche star fermo e lasciar fare il corso alle cose. E Anisia, tu come la vedi? O che esperienze hai, se senti i tuoi coetanei? Molti giovani pensano appunto solo al prodotto finale, non so come dire. Cioè pensano all'inizio, iniziamo, prima finiamo, meglio è. Quindi arriviamo al prodotto, perché quello poi viene venduto, viene conferito magari in cantine, in aziende, e ci guadagniamo e tutto. Però magari esagerando, appunto, come diceva mia mamma, anche con le concimazioni, non so, esagerate, quindi sforzare una cosa che ci arriverebbe a quel prodotto in maniera naturale, però loro volendolo fare prima devono sforzare. O magari anche coi trattamenti, quindi troppi trattamenti, troppe concimazioni. Secondo me, appunto, bisogna lasciare il ciclo così com'è, perché alla fine se c'è un ciclo, un motivo c'è. E logicamente in alcuni periodi qualcosa bisogna fare, o magari se succede qualcosa, un attacco di una malattia, una grandinata, bisogna intervenire per dare una mano alle piante. Però questo è sempre a favore delle piante, quindi non azioni che sfavoriscono poi il prodotto. Se posso poi spezzare una lancia nei confronti dei giovani, visto che sono stati presi in causa qui anche con Anisia, a me rincuorano i giovani. È vero, c'è una parte di generazione che magari esce da famiglie che hanno una visuale, però nell'insieme io trovo tanti giovani che vogliono sapere, vogliono conoscere, vogliono approfondire, vogliono sapere quello che mangiano, quello che bevono. Non è più, ma sì, basta mangiare, basta bere, tanto che sia. No, e vedo anche nel mondo del vino così. Negli ultimi 6, 7, 8 anni, vedo una fascia di giovani dai 20 ai 30 anni magari, sempre più attenta, e questo è bellissimo. Ma non serve andare tanto lontano, anche qua da noi, e anche noi in paese o nei paesi vicini, ci sono tantissimi giovani che hanno questo bel approccio. È sempre più importante questa, è sempre più presente questa fascia d'età. Paradossalmente vengono in cantina quasi più giovani che persone di una certa età, o comunque hanno un'apertura anche mentale e di approccio verso un modo di fare vino, anche che non è il classico modo di fare vino, è molto più da curiosi, che è bella la curiosità, perché chiedono, ma chiedono per imparare, per sapere, non chiedono per criticare. Poi magari si fanno una loro idea critica sulle cose, però questo per me è bellissimo, e spero che continui a essere così, perché già la mia generazione secondo me è molto più quasi rassegnata, quasi abituata, ma sì, anche comoda. È comodo andare al supermercato, comprare già tutto pronto, magari l'insalata in busta, che magari mettersi lì, lavarla o fare due tagliatelle magari fresche. Quanto è importante saper raccontare il tuo prodotto? Secondo me è importantissimo. Bisogna, secondo me, stare attenti, perché adesso siamo in un mondo della bellezza, dell'impatto. Anche lì bisogna essere sinceri. Quando racconti un prodotto, io vedo coi nostri, tu devi dire quello che fai. Devi essere credibile. Poi infatti io dico sempre, ok, anche alle fiere, io vi faccio assaggiare il vino, se poi volete venite in cantina, che così vedete che quello che vi racconto è quello che poi ritrovate nel bicchiere. Io vedo tante pubblicità, tante spiegazioni di prodotti dove è troppo, dove non è limpida l'immagine. Non devo autocelebrarmi, ecco, a volte ci si autocelebra troppo. E questo, sempre ritornando con l'attaccamento alla terra, secondo me è un po' una perdita di umiltà, però dipende sempre poi che approccio che hai anche con questo lavoro, ecco. È chiaro che meglio comunichi, noi siamo poco social, non abbiamo il sito, infatti tanti, ma come non avete il sito, dovete fare il sito? No, i nostri prodotti riusciamo a piazzarli anche senza il sito. Dopo non puoi star fuori da tutto, però dovresti riuscire a calibrare un po' le cose, ecco. Da grande mi piacerebbe appunto continuare logicamente l'azienda, però con la mamma appunto stiamo un po' pensando di allargare questo fatto dell'autoproduzione degli alimenti, quindi già con le galline, avendo le uova fresche, puoi fare tanto, puoi fare la pasta fresca, anche a casa noi spesso la pasta ce la facciamo, ci si mette pochissimo e mangi una cosa ancora più buona. Ti fai i sughi, hai l'orto, quindi hai le verdure fresche, te le puoi mettere via sott'olio, farti il pesto per l'inverno, quindi basta poco, la conservazione te la studi, metti via e poi ce l'hai lì pronto. Quindi questo mi piace molto, anche gli animali, devo dire che mi piacerebbe adesso un po' approfondire gli argomenti, quindi andare a imparare anche il formaggio, perché magari se un giorno dovessimo avere anche solo due animali da produzione da latte, comunque ti fai la tua piccola produzione, ma anche in cantina poi sarebbe bello presentare il tuo vino, che è il prodotto principale, però accompagnato da un qualcosa che fai te, quindi da un pezzettino di formaggio invece che comprarlo, anche se lo compriamo comunque da aziende qua locali che conosciamo, cose buone, però te lo produci un pezzo di pane fatto in casa, secondo me ha un alto valore. Magari con la propria farina. Cosa c'è di meraviglioso della terra? Della terra secondo me è un po' meraviglioso tutto, cioè qualsiasi piccola cosa. Secondo me anche gli esseri viventi della terra, i microrganismi sono meravigliosi. Cioè io a volte mi perdo anche in campagna a guardare, non lo so, le cucinelle, un'ape, cioè come lavora un'ape nella terra, in campagna, sui fiori, o i lombrichi che comunque danno tanto alla terra. In più il complesso, cioè i paesaggi che crea la terra, secondo me sono meravigliosi. Niente, che però adesso si vanno un po' a perdere e questo non bisognerebbe farlo. Come ha detto Anisa, è tutto bello nel lavoro e nel contatto con la terra, dal sentire la consistenza diversa della terra, se è asciutta, se è bagnata, se ci sono passati i lombrichi, se è stata calpestata, non calpestata, vedere anche se li aiuti con un po' di sovescio, come migliora la terra. È tutto bello, anche il confronto, perché poi quando sei lì ti metti in gioco e il cervello, anche perché tante volte in campagna lavori da solo, perché anche se magari sei in due, però magari in file diverse, per cui ti porta questo ragionamento, per cui ti confronti con te stesso e la terra ti porta a ragionare e ad apprezzare. Prima lei diceva le api sono fantastiche. Le api le vedi sull'uva, che tanti le cacciano, ma le api puliscono, non fanno danno. Cioè bisogna anche saper distinguere poi qual è l'insetto che fa il danno e qual è invece quello che invece ti aiuta. L'ape pulisce, la vespa rompe, l'ape pulisce e ti aiuta. Per cui quando in vendemmia mi capita il grappolo con l'ape che sta mangiando, io tolgo l'acino, l'appoggio a terra e dico vai avanti a mangiare e intanto proseguo il mio lavoro, non la caccio. Poi ogni tanto arriva qualche puntura, però lì è perché non la vediamo e poveretta si difende, ecco, da un attacco involontario.